devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere. E così, buonasera a tutti e tutte, sono le ore 23, due minuti primi qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Chi vi sta parlando in questo momento è Nino aka DJ Misk, che vi presenta Altro Verso per questo sabato 19 novembre in diretta da Via dei Volsci, esattamente zona San Lorenzo, appunto dove si trova questa piccola grande radio che dal 1977 trasmette liberamente a Roma e provincia. Ricordo 0649 1750 il nostro numero di telefono, altroverso @ondarossa.info se volete scriverci tramite email, e poi naturalmente il sito ufficiale che è www.altroverso.net, così come quello della radio che è www.ondarossa.info. Oggi 19 novembre 2011, rigorosamente in diretta, vi vado a lanciare, a presentare questa puntata numero 688 di Altro Verso, quindi alzate il volume e slacciate le cinture. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altro Verso, dalle 23 alle 6 del mattino, news, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altro Verso, il meglio della musica elettronica. Così siete all'ascolto di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica, sempre su Radio Onda Rossa con DJ Misk. Abbiamo iniziato già da qualche minuto con questa selecta novità dalla Mood Music Records, si chiama Migu con Machine Poetry, remixato da Alexander Mayer. Un ottimo inizio, bello, leggermente cadenzato, con queste atmosfere molto avvolgenti e anche viaggiose. Proprio l'inizio perfetto in questo sabato 19 novembre, un po' freddo, come è giusto che sia così durante l'inverno, quindi è il periodo giusto magari per che so, trascorrere il sabato notte nel giusto club, oppure trascorrerlo a casa tra gli amici durante una festa, oppure che so, con la propria donna, con il proprio uomo, insomma, è questa l'ottima idea, una delle tante idee, insomma, per trascorrere questo sabato sera, facendo naturalmente con la musica di Altro Verso, mi raccomando. Adesso arriva Masio Plex con Ain't That Love su Elum Audio. Masio Plex, l'artista che incide per la Elum Audio, e la traccia è intitolata invece Ain't That Love. Adesso c'è Ezequiel Sanchez featuring N Santos con Not For You, remixata da Chen Bass, la label è la Nordic Net. Thank you. Ottimo stile, ottima produzione questa su Nordic Net Records. Sono Ezequiel Sanchez featuring En Santos con Not For You, remixato da Chen Bass. Adesso vi voglio parlare dell'iniziativa di sabato prossimo, 26 novembre, Xpander meets Altroverso, con diciamo un incontro di questi due gruppi che propongono musica elettronica underground qui nella città di Roma. Xpander, insomma, mando un grande saluto a Max Gandalf, che suonerà assieme a DJ Mischi a Dam al Shiva, il locale che si trova in via Galvani, zona Testaccio. L'ingresso è free per tutti gli ascoltatori di Altroverso, tutti gli amici di Xpander, e insomma ci sarà veramente da divertirsi musicalmente parlando e anche soprattutto come serata. Vi ricordo, sabato prossimo tutti e tutte invitate allo Shiva, perché ci sarà Xpander che incontrerà Altroverso. Adesso arriva Nico Purman con Fade Away dalla Crosstown Rebels. Purman con Fade Away su Crosstown Rebels, sempre un'altra bella novità qui all'interno di Altroverso, solo musica elettronica underground. Proseguiamo senza fermarci, adesso andiamo in casa Cocoon Records per ascoltare il nuovo lavoro degli Extravelt, dal quale ci andiamo ad ascoltare Pontiac. Thank you. così grandi extravert con questa Poriak su Cocoon Records, il loro ultimo album che abbiamo ascoltato in anteprima, appunto con questa traccia. Adesso arriva Jay Ace su Left Room Records con Data Funk in Your Ears. Thank you. questo è Jay Ace con Data Funk in Your Ears su Left Room Records. Vi ricordo che la playlist completa la trovate scritta nel nostro sito internet www.altroverso.net, lì c'è anche il podcast per riascoltare la trasmissione e naturalmente la web radio online 24 ore su 24 proprio di Altroverso. Senza fermarci adesso andiamo in casa Upon You Records, arriva Marcus Maynard con Splash. Yeah. con questa splash di Marcus Maynard su Up On You Records si conclude questa prima mezz'ora di Altro Verso, prima mezz'ora di novità. Adesso ci fermiamo per l'ascolto di Ben Tre Spottini e poi riprenderemo tra esattamente 3 minuti con la seconda parte di Altro Verso. Mi raccomando, non mollate e rimanete sempre qui su Onda Rossa. È un professore. È serio. È bocconiano. Ha studiato da Goldman Sachs. Tranquillizza i mercati. È ben visto in Europa. Piace a Napolitano. E se non funziona? This land is not for sale. Il 15 ottobre in piazza è esplosa la rabbia. Con arresti, denunce e divieti vogliono metterci paura. Ma ribellarsi è giusto. Liberatutto.noblogs.org. Libertà per tutti e tutte. Per sottoscrivere puoi venire negli studi di Via dei Volsci 56 a Radio Onda Rossa tutti i giorni dalle 8 alle 21. Oppure con il conto corrente postale 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma. Causale 15 ottobre. Libertà, l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato. Sabato 26 novembre 2011, ore 14 a Piazza della Repubblica, manifestazione nazionale per l'acqua pubblica e per difendere i beni comuni. Sabato 26 novembre 2011, Ice White Bites, Step 3. Dai, cor 3. Nessun sogno è mai solamente un sogno. Dalle 22.30 al CSO a Forte Prenestino, Radio Torre incontra in a dance hall style Diversity and Sunny Roots. E inoltre live on stage, ovvero vivi sul palco, l'ultima fase con la Rhythm Shooters Band presentano il nuovo disco Punti di Vista. Sabato 26 novembre 2011, dopo la manifestazione nazionale per l'acqua pubblica, al CSOA Forte Prenestino, via Federico Delfino a Centocelle, www.forteprenestino.net. Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono. Malcolm X. Gli sciocchi umani hanno una faticata mai, perché loro non sanno come campano operai. Se non ammendo solo quanti sordi fanno con la nuci, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o tu non vai. Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista. La notte comincia con Altro Verso. Porto dalla noche, música electrónica sin interrupción. così riprende la seconda parte di Altro Verso, sempre musica elettronica underground, sempre con DJ Misk qui da Onda Rossa 87900 in FM e sempre qui naturalmente sulle frequenze libere e ribelli di questa radio. Abbiamo ripreso con Christophe and Lucas e la loro Real Love su etichetta Future Boogie. Prossima mezz'ora l'ascolto ancora di altre 7 selezioni novità, quindi andremo avanti fino alle ore 24, poi dalle 24 alle 5 della mattina in rotazione automatica tutta la migliore selezione musicale di Altro Verso di queste ultime settimane, poi dalle 5 alle 6 invece la chiusura è dedicata alla zona chill out, quindi naturalmente le selezioni più ambient e più appunto chill out, proprio per rilassarsi e chiudere alla grande questo sabato notte. Senza fermarci, adesso ascoltiamo dalla Get Physical Records il nuovo grande lavoro di DJ T featuring Khan, si chiama Leaving Me ed è remixato da Clockwork. Was I made for trusting you? DJ T featuring Khan con Leaving Me su etichetta Get Physical Records, sempre ascolto di nuove tracce qui in Altro Verso. Dunque sono le ore 23:41, siete sempre collegati con Radio Onda Rossa. Vi ricordo Naturalmente che tutte queste novità le trovate scritte nel sito internet www.altroverso.net. Le novità naturalmente riguardano la playlist, il podcast per riascoltare la trasmissione, poi naturalmente la web radio per ascoltare online 24 su 24 tutta questa musica. Voglio anche parlarvi di sabato 26 novembre, sabato prossimo, iniziativa Expander Meets Altroverso allo Shiva, che si trova in via Galvani, zona Testaccio. L'ingresso è gratuito per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Altroverso. L'iniziativa, insomma, per ballare con questa musica ci sarà sabato prossimo a Testaccio. Adesso arriva una grande artista della Crossan Rebels, ma anche produce per la Minus Records, si chiama Dinky. E ascoltiamo il suo ultimo 12 pollici che si intitola Sealed. Crossan Rebels, Dinky con Sealed, sempre musica elettronica underground, sempre con Altroverso fino alle ore 6 della mattina, solo qui su Radio Onda Rossa. Adesso arriva Karel con Next to You nella versione remix di Flacon Team su Flumo. questa è Karel con Next to You su etichetta Flumo Records, remixato da Flacun Team. Adesso ascoltiamo Masu con Love This dalla Caramella Records. Allora, 23.53, sempre in diretta qui da Onda Rossa, ancora pochi minuti con la prima ora di diretta, la prima ora dedicata come sempre alle selezioni novità dell'underground internazionale e poi la rotazione notturna che invece andrà avanti fino alle 6 della mattina. Questo era Masu con Love This, la prossima invece si chiama Antonio Cavaliero, si intitola Next Up su Panama Records, artista di chiarissime origini latinoamericane che insomma si fa molto sentire, nuovo artista, veramente grandiosa questa traccia, l'ho ascoltata e non potevo non selezionarla in questa prima parte di Altro Verso. Next Up su Panama Red.